Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Nuovamente in diretta dopo il GR di Radio Popolare di oggi, mercoledì 15 maggio, mercoledì letterario, riportiamo un last minute che arriva a Bologna con un protagonista in diretta attinenza con Libreria Ubik, come diretta attinenza al Breakfast Club, grazie alla collaborazione di Libreria Ubik Irnerio, ovviamente a Bologna. Sarà giovedì 16 maggio alle ore 18. Abbiamo, oltre che gli auguri per il festeggiamento, i 21 anni della libreria, ovviamente aspettiamo tutte e tutti, in questo caso ascoltatrici e ascoltatori del Voltiamo Pagina, sarete premiati direttamente per la serata alla libreria che ricordo in Via Irnerio 27. Libreria Ubik, etimo del nome abbastanza intuibile, è una sorta di ubiquità, per l'ubiquità ci vuole spostamento, per lo spostamento e la libreria ci vuole mezzo di locomozione molto particolare. Non voglio svelare in questa apertura più di tanto, piuttosto preferirei dare spazio a Fabio Mendolicchio, che ho avuto la fortuna di conoscere telefonicamente, lo conoscerò di persona giovedì, e quindi direi proprio di iniziare con questa conversazione. Allora, direi di iniziare questa conversazione in collaborazione con Libreria Ubik Irnerio di Bologna. Parliamo di librerie o libreria in movimento, del resto Ubik dal latino, così se vogliamo trovare un etimo di ubiquità ovunque, e quale migliore possibilità di avere librerie ovunque. Almeno ci proviamo con tanto entusiasmo e anche, per così dire, con la volontà di scoprire nuovi posti. Intanto do il buongiorno al nostro ospite che sarà a Bologna, Fabio, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Allora, mi hanno parlato di te come personaggio istrionico, da cuoco a editore a viaggiatore, e con queste idee che mettono insieme tante cose, oltre che ovviamente la possibilità di lettura per tutte e per tutti. Ci puoi dire qualcosa di più specifico, Fabio? Sostanzialmente è che ogni tanto bisogna metterci un po' la faccia e prendersi quel protagonismo che permette in qualche modo di veicolare informazioni importanti per la salute mentale ma anche fisica di ognuno di noi. Ed è un po' così che dopo la pandemia è nata questa idea, questa follia di ritornare ad abbracciare le persone, a guardarsi negli occhi, a riprendere i contatti con quel mondo editoriale che mi vede un po' protagonista da 14 anni a sta parte, da quando ho intrapreso questa esperienza editoriale con Miraggi Edizioni. È una libreria in viaggio, ma non esplicitamente o specificamente di viaggio, è una libreria Ubik su due ruote. In Vespa il così definito pazzo collega Fabio farà un giro d'Italia e sulla sua Ubik Vespa, e la Ubik Irnerio sarà la prima tappa, giovedì 16 maggio alle ore 18. Come sarà questo viaggio? Da dove parti intanto? Allora, io parto da Torino, la città dove vivo e dove lavoro normalmente, e la prima tappa appunto è Bologna. Perché Bologna? È stata individuata nella media chilometrica del tour. Io farò 4.000 chilometri in 11 giorni per 11 incontri, dove incontrerò e ho letto i libri di 12 scrittori, e Bologna da Torino sono 350 chilometri circa, quindi è la prima tappa e mi permette in qualche modo di iniziare questo giro che scenderà poi lungo costa adriatica per arrivare fino in Puglia e poi punta estrema che raggiungerò è Catanzaro, per poi risalire Praia Mara, Benevento, Roma, Sesto Fiorentino, incrociare poi verso il nord-est Mestre, per poi andare a chiudere a Bergamo e a Busto Arsizio. i suoni Last Minute con il lavoro Macrodeglia di Slop Shop. Scandisce il tempo di viaggio in questo caso per un'Ubica a due ruote con una Vespa che può, io adesso non ho la possibilità di dare informazioni tecniche, le darà nella seconda parte di conversazione Fabio Mendolicchio. Io ricordo che domani giovedì 16 maggio alle ore 18, oltre che per gli auguri alla Ubica 21 anni di libreria, ovviamente esiste una Ubica su due ruote. A questo punto lo sapete, per quanto riguarda il lavoro che vede Bologna come prima tappa, più che lavoro, viaggio, ma è un viaggio di lavoro per presentazione e per accogliere in questo caso ascoltatrici, ascoltatori, lettrici, lettori, a chi arriva notizia, un appuntamento da non perdere. Ci sarà poi motivo di conversazione con presentazione incentrata su coprotagonisti di questo tour. La presentazione di Bologna è a proposito di un autore intellettuale, uno scrittore molto importante, si parla di Ezio Sinigaglia. Perché questa partenza? E perché rappresenta benissimo quella che è l'idea che persevero, che perseveriamo, di una letteratura capace di mettere insieme grande linguistica, grande capacità di scrittura, visione, immaginifica, perseguire la buona lettura, perché ne abbiamo grande bisogno. E ritengo, un po' nel titolo di questo primo Ubic Vespa Tour Festival, che sia urgente. Cioè, ne abbiamo bisogno di leggere bene. È un po' come abbiamo bisogno di mangiare bene, di fare attenzione a quelle attività che facciamo quotidianamente o che dovremmo fare e che ci rendono persone migliori. E quindi sarà anche una festa, perché l'occasione sono i 21 anni della libreria, quindi ribadisco le date, giovedì 16 maggio e anche l'ora, alle ore 18, una presentazione speciale, Fabio Mendolicchio presenta Ezio Sinigaglia con questo inizio Ubic Vespa Tour, Ubic su due ruote. Beh, io ti auguro ovviamente, oltre che un buon viaggio, aggiungo i miei più sinceri complimenti per questa iniziativa. Hai una Vespa molto capiente. Una Vespa 200 GT, posso viaggiare in autostrada. Dietro c'è montato uno scaffale con vetrina che cambio giorno per giorno, dove i libri sono esposti, dove la gente vede i libri esposti mentre guida, mentre mi sorpassa, laddove mi fermo a semafori, incroci e via dicendo. Sì, di questo te ne ringrazio. E sarà una prima tappa particolare, che appunto io vi invito a venire. Uno, perché partecipare è una cosa meravigliosa, e quindi al di là proprio dell'impresa che sto per fare, potersi confrontare, relazionare, chiacchierare, ma anche divertirsi con le persone, è una cosa che avviene solo se le persone ci sono, quindi e poi sarà particolare perché il meteo non promette benissimo. Beh, quindi, io ti auguro il meglio anche a questo proposito. Una primavera temo che viaggerò con la pioggia, e quindi venite almeno a rendere meno vano questo gesto. Io con un caloroso abbraccio ti saluto, ci vedremo giovedì in libreria Ubica via Nerio 27, e che dire, grazie ancora e a presto. Ciao. Grazie a te William, spero di vederti, di conoscerti di persona, e venite in tanti, libreria Ubic Bologna. E come avremo modo di conoscerci, anche perché oltre che lodevole, importante, se vogliamo particolare iniziativa di avere una libreria con motilità e ubiquità come il nome Ubi, che poi tra l'altro ricorda definita su due ruote, un tour che vede diversi co-protagonisti presentati da Fabio Mendolicchio, si inizia a Bologna, sarà domani alle ore 18, via Irnerio 27. Oggi i premi che verranno assegnati saranno in sede consegnati alla vincitrice o al vincitore del Voltaire. Voltiamo pagina. Auguri, libreria Ubic. A tra poco con il Voltiamo pagina del mercoledì sui 103.1.